24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Ci siamo, ci siamo alle 6:35 minuti anche questa mattina. Buongiorno, cari ascoltatori, in diretta fino alle 9. Il nostro Alessandro Longoni è lì in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè è lì in regia. Pronto a tirar su la saracinesca, ovviamente, del nostro bar. Dove troviamo? Dove ritroviamo? Non ho nessuna domanda. Non ho intenzione di rilasciare nessun tipo di dichiarazione. Offrendo il caffè a tutti, Nicole Minetti anche oggi lo offre a Maria Dinolfi del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno, eccomi qua. Sempre moca, eh. Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, buongiorno. Buongiorno Alessandro, buongiorno. Per svegliare. È bello perché io sono sempre bello pimpante, poi arrivano queste voci giustamente da poco sveglie. Buongiorno, buongiorno anche a voi. Maria Dinolfi ci ha messo più entusiasmo. Volevo subito farvi volevo provocare. Ecco, dai, provochiamo un po' come hanno fatto tutti, eh. Il terzo perché? Perché il primo l'ha fatto Garibaldi, vi ha portato in Savoia. Sì. Il secondo gli americani, vi hanno portato la mafia. E il terzo vi hanno portato il Movimento 5 Stelle. Però né Lucky Luciano né Garibaldi sono venuti a nuoto. L'unico sono stato io. Adesso sta uscendo il sole, le voci sono contrastanti. C'è corrente che porta di là o corrente che porta dall'altra parte. I pescatori si stanno bisticciando da che lato deve andare la corrente, perché se va a nord io la prendo e arrivo a Genova senza traghetto risparmiando. Se invece va a sud vado a Tunisia, allora mi dispiace, non mi vedrete più. Vabbè, la musichetta che abbiamo messo sotto è una musichetta un po', ma l'hanno paragonato tutti a Mussolini. Io lo chiamo su Twitter così Kim Jong Grill. Ma in realtà una parte di me lo adora. Mario Dinolfi, sbaglio, e avete riconosciuto Beppe Grillo, una parte di me lo adora, perché insomma, sì, è vero, ha fatto come il Duce, ha fatto come Mao Zedong, no? Ha fatto vedere che nuota, è sbarcato in Sicilia. Faccio bene ad adorarlo per una parte non capirlo mai, oppure no? Sai, io non ho antipatia per Beppe Grillo, non ho neanche antipatia per il Movimento 5 Stelle, devo dire la verità, l'immagine di ieri non era sbagliata, cioè un'immagine positiva di fatica fisica. Secondo me non è stata una scelta sbagliata quella di Grillo. Ovviamente tutto quello che fa è per attirare attenzione, ovviamente è per la ricerca della visibilità, ovviamente c'è un elemento istrionico, ovviamente c'è un elemento anche cialtronesco, comico, diciamo così, da buffone per sì. essere... Sì. Dentro quello che poi è il suo mestiere reale, però devo dire che quando oggi si leggono le pagine dei giornali con le notizie incredibili che arrivano da tutte le regioni, perché ormai è diventata una cosa incredibile. Devo dire che per Beppe Grillo le sue nuotate si srotola un cioè infatti brutto. Secondo me ma ogni bracciata guadagnava, non lo so se Maurizio Tortorella, che so essere un acerrimo critico del modo anche di porsi di Beppe Grillo, ma ogni bracciata legata, non so, lui ha detto sono arrivato a Reggio Calabria, è caduto per mafia il comune di Reggio Calabria, faceva le bracciate e si affastellavano le notizie dalle regioni di indagati dovunque, arrestati, Lombardia, Lazio, di tutti i partiti, so, ogni bracciata guadagna uno 0,01 punti percentuali nel voto, no Maurizio? Sì, indubbiamente devo dire che gioca facile, purtroppo, anch'io condivido appunto, lo sai bene, un giudizio certo non positivo nei confronti di Grillo, che trovo non soltanto un istrione fine a se stesso, senza proposte non soltanto condivisibili, ma neanche comprensibili in certi casi, perché non so assolutamente che cosa voglia, abbia in mente di fare in moltissimi campi, ma ecco, quello che a me è parso ieri è stato un grande splash in avanti, questo lo dici e lo ripeto, non riesco a capire, cioè, a parte la ricerca e appunto il raggiungimento della visibilità, resta tutto molto fine a se stesso, non capisco poi questa visibilità E beh, ma lui ha creato un po' con la visibilità, poi adesso ovviamente farà tutti i suoi comizi in Sicilia. Sì, per verità, certo. Ma secondo me, io non lo so, così da osservatore disattento della politica, lo vedevo nuotare, l'ho visto arrivare e non lo so, ho come la sensazione che ci sia una stella positiva che lo accompagni, no? A proposito del Movimento 5 Stelle, cioè, qualsiasi cosa fa, qualsiasi cosa tocca, però, è il suo momento. Indubbiamente fortunato, questo gli va riconosciuto, che è una dote anche in politica, indubbiamente. Indubbiamente, e gli va riconosciuto anche questo, e lo dico da ex nuotatore, nuotava discretamente con le pinne, però è un sì, paio no, di tutto quel che vuoi. Vabbè. Tutto in Messina non è per nulla una, ah no, ma certo, una, 3 chilometri ha fatto. Ci sono correnti impetuose a tratti, dipende dall'orario, ovviamente. E coprirlo in un'ora e 17 minuti non è non è male per se per uno 62enne, certo, la sua mole. Insomma, da questo punto di vista ha soltanto chapeau e basta. Ripeto, per me comunque resta uno splash in avanti. Beh, ma questo poi staremo a vedere alla fine le urne. Allora, i giornali, visto che ci sono stati consegnati, ma qua è tutto. Il Sole 24 Ore fa un'ampia analisi sulla legge di stabilità, la stretta su detrazioni e oneri deducibili. Poi, caro Mario Adinolfi e Maurizio Tortorella, eccoci qua. Assessore in cella, Formigoni in bilico, l'Ndrangheta al Pirellone per Repubblica. Poi il giornale Libero, il giornale qui viene giù tutto, è Libero, qui va giù la Lombardia. Mario, se lo dicono loro che sono anche abbastanza vicini politicamente, affini, mi sa che è così. Cioè, Formigoni dovrebbe andarsene. Io francamente non so come possa fare a resistere. Il quinto arresto in giunta. Il tema interessante è anche il ricatto politico, perché Formigoni, che è stato ormai messo alle spalle al muro anche dalla Lega, non solo da Libero, diciamo così, la Lega, come sappiamo, è il principale alleato di Formigoni in regione, risponde: se viene giù Lombardia, viene giù anche Piemonte e Veneto. E dunque credo che da questo derivi il titolo del... Certo, perché lì governa la Lega, e quindi se la Lega fa cadere la Lombardia, il PDL, il centrodestra, fa cadere Piemonte e Veneto. Insomma, siamo in una strettoia di una incredibile drammaticità. Fatemi aggiungere che poi, insomma, io parlo da Roma, e a Roma arriva quest'altra notizia incredibile: il capogruppo dell'Italia dei Valori, cioè sì, di Di Pietro, che si è, almeno secondo le cose che leggiamo sui giornali, preso 760.000 euro di fondo pubblico e trasferito sul proprio conto. Cioè, sono immagini che lasciano atterriti persino chi, insomma, come me, un minimo di pelo sullo stomaco e di cose ne ha viste facendo. No, ma hai voglia che poi Grillo vince facile dalle intercettazioni. Allora, no, ma certo, la nuotata arriva in questo giorno qui, che è un giorno incredibile, per certi versi incredibile. Dalle intercettazioni di quest'uomo vicino all'Ndrangheta sull'assessore Zambetti in Lombardia arrestato, hai visto che ha pagato quel pisciaturu di Zambetti, lo facevamo saltare per aria, senza di noi chi se lo eleggeva? Ma Maurizio Tortorella, per carità, siamo garantisti e tutto, ma leggere che l'Ndrangheta sarebbe entrata con alcuni suoi uomini in regione comprando voti e mettendolo lì, fa un effetto molto molto forte sui cittadini. È orribile, non è forte, è orribile. 200.000 euro contro 4.000 voti, questa è l'ipotesi dell'accusa, quindi 50 euro a voto. Sì, sì, sì. Proprio pagati così, e poi non vuol pagare, adesso piange, non vuol pagare, ma chi se lo eleggeva se non c'eravamo noi? Io ho un dubbio però, e lo manifesto, ripeto, tu l'hai detto, da garantista. Le intercettazioni sono del marzo del 2011, sono passati un anno e 4 mesi, 5 mesi. Francamente, anche questo crea un minimo, anzi qualcosa di più di un minimo di perplessità, perché aspettare tanto tempo? Cosa sono state chiuse le indagini adesso? Di orologeria, perché ovviamente non è di questo che si tratterà, però sono cose che lasciano perplessi. Lasciano perplessi perché la tempistica, cioè forse ha dovuto chiudere le indagini, no? Ci sono state indagini, ed è giusto che ci siano le indagini, che siano accuratissime, approfonditissime, però io segnalo questo fatto, perché a me personalmente lascia un po' perplesso. Che capisco, che gli approfondimenti di indagini possono andare avanti per qualche mese, ma per un anno e quattro mesi. Qui c'è un po', per carità, no, non giustizia orologeria, però Mario Di Nolfi, cioè, c'è un sospettino lanciato dal vice direttore di Panorama. È un altro problema ovviamente che abbiamo, perché sicuramente ogni volta che arriva un provvedimento dei giudici, essendo la guerra, diciamo così, fra giustizia e politica uno dei leitmotiv degli ultimi vent'anni, stiamo sempre a guardare sulle tempistiche, sì, però, sì. Però se dobbiamo guardare i fatti, io dico che i cittadini rimangono comunque sconcertati. Ah, ma questo sì, questo sì. E ovviamente fa bene Tortorella a segnalare la questione, perché è bene essere profondi e approfonditi quando si parla di questi temi, sono delicatissimi, e poi ricordiamo mettono ormai nei guai le persone per sempre, non credo potrà uscirne, sia l'esito processuale, diciamo così. Detto questo, io non posso non guardare al quadro d'insieme. Il quadro d'insieme è terribile, è che qui viene giù tutto questo, che vuol dire, per chi come me fa politica con passione, con onestà, camminare per strada e sentire la gente che ti ha dire, diciamo, quello è un politico, quindi, cioè ormai è diventata una cosa come ha detto il consigliere regionale del Piemonte, passavo in strada con la mia famiglia e mi hanno additato, guardalo lì, quello è un consigliere regionale. Ecco, a questo siamo arrivati. Fare l'assessore nella regione Lazio a soli 30 anni mi inorgoglisce e mi ha fatto capire, mi fa capire che anche se si è giovani si può stare dentro le istituzioni per cercare di cambiarle, per cercare di migliorarle. Eccolo qui, la voce dell'assessore, Vincenzo Maruccio, a Di Nolfi, quello che diceva. Sì. Insomma, ci avevate pare in regione, pare anche Robin, oltre a Batman e Robin. Batman. La fotografia scattata in regione Lazio è assolutamente da volta stomaco, sì. Perché devo dire, adesso che vengono svelati con concretezza gli altarini, ci accorgiamo di non aver avuto proprio capacità di selezione di classe dirigente, e fatevi dire una cosa, tutti con le preferenze queste. Ma infatti il tema è questo, anche in Lombardia il problema è quello, cioè si sono comprati le preferenze, stai a vedere che queste preferenze sono... Io questa cosa la sottolineo sempre, perché quando mi dicono adesso la grande novità sarà la legge elettorale con le preferenze, sbianco, perché so perfettamente, perché non me lo dimentico, che poi 20 anni fa, io faccio politica da 25 anni, si compravano così. 20 anni fa la grande novità fu togliere le preferenze, ve lo ricordate? Com'è che funzionava? Dicevano a uno, tu vota Mario Adinolfi, tu Adinolfi Mario, tu Marione Adinolfi. Poi c'erano le cordate a 3, a 4 preferenze, 25, 7, 9, i numeri. Allora, tutta questa cosa fu la grande conquista della Seconda Repubblica. Adesso in questo gioco dell'oca che è diventata l'Italia siamo ritornati al punto di partenza delle preferenze. La battaglia la facciamo per reintrodurle. Sì, però come la metti, non la metti, Maurizio Tortorella, adesso come la metti, e non si vuole il Parlamento di nominati, e per carità non vogliamo i nominati, e le preferenze, se mettiamo le preferenze, poi ci sono quelli che comprano i voti, e la 'ndrangheta, la mafia e la camorra che si compra i parlamentari, ma allora, cioè, voglio dire, il problema è alla radice, cioè, se non siamo in grado, se siamo un popolo di corrotti e corruttibili e corruttori, e allora teniamoci quello che c'è e basta, no? Hai anticipato esattamente quello che dicevo, che volevo dire io. Si passa da un sistema all'altro, obiettivamente ogni sistema ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma io sono per l'uninominale secco all'inglese, di almeno ogni partito è responsabile della scelta dell'uomo che fa in una determinata circoscrizione, e l'uomo passa o non passa a seconda di quello che dicono gli elettori, piccole circoscrizioni individuate e ben controllabili, così che l'eletto poi va, come si dice, in collegio, nel suo collegio o sul territorio, come dicono adesso i politici che fanno ridere, che sembrano parlare dei militari dilettanti, resta il sistema più trasparente inevitabilmente. Senti, no, ma noi abbiamo ancora un minuto, vorrei capire perché avete messo oggi in copertina di Panorama Mario Monti travestito da James Bond col titolo 007 Monti, licenza di spiare, per sta storia che ci controllano i conti in banca. Questa storiella che ci controllano i conti, no? Allora, lotta all'evasione, va bene, siamo tutti d'accordo, anzi applausi sullo sfondo. Il punto è che

con la gente che grida attento ci sono i barracuda, ma lui è partito, è arrivato e ha iniziato la campagna elettorale. Bella intensa la pagina anche ironica di Aldo Cazzullo sul giornale, sul Corriere della Sera, la trovate a pagina 18. Devo andare velocemente perché devo raccontare due notizie relative al Milan. La prima la mette in prima pagina il Secolo XIX. Berlusconi sarebbe pronto a vendere ai magnati russi. Giovanni Palombo, che di solito fa il retroscena della politica legati a Silvio Berlusconi, in prima pagina: un magnate russo, proprietario di miniere al di là degli Urali, che controlla la squadra dell'Amkar Perm, e un magnate ucraino avrebbero fatto pervenire delle offerte a Silvio Berlusconi per acquistare il Milan. E secondo il Secolo XIX, Berlusconi sta vacillando. L'offerta sarebbe consistente: 500 milioni di euro per acquistare all'inizio il 30% delle azioni, quindi entrare come azionisti di minoranza. Ma nell'accordo verrebbe inserita una clausola che permetterebbe al possibile compratore di aggiungere un altro 21% di azioni nel giro di pochi anni e quindi arrivare alla maggioranza, 51%. Il Milan ai russi, mentre la Gazzetta dello Sport titola in prima pagina Ibra al Milan. Che uno dice no, perché si sono la Gazzetta di 2 anni fa. No, Ibra al Milan. Secondo la Gazzetta, Ibrahimovic è pronto a tornare. Avrebbe detto: io volevo stare a Milano, pare che non stia bene a Paris Saint-Germain, e ha detto: se serve torno. E Berlusconi pare che abbia detto a Galliani: vai e portalo, riportalo al Milan. È scattata anche l'operazione Guardiola, cioè cercare di prendere Guardiola. Ecco, finalmente, alla fine, la vera bella notizia forse è questa. Con noi c'è il presidente della provincia autonoma di Bolzano, Luis Durwalder. Buongiorno, presidente. Buongiorno. Senta, ho scoperto che è uno dei più antichi professionisti della politica, lei. Sindaco dal 1969. Prima volta sindaco. Sì, ho fatto il sindaco a 26 anni, Però, certo. Diciamo, anni lontani. Infatti, no, perché ieri il Corriere.it diceva: è politico dal 1969. Dal 1989 a capo della provincia autonoma di Bolzano. C'era ancora il muro di Berlino. Ma glielo faccio come provocazione. Non è il caso, anche visto che si parla tanto di rinnovamento, di passare la mano, presidente? Ma lei sa, diciamo, che è sempre così, che i giovani si fanno anche vivi, e io tutte le volte, se a casa ho uno specchio, se guardo nello specchio, mi domando se la casa anziani oggi ha porte aperte, cioè mi sento anche un po' anziano, e per questo motivo forse è arrivato anche il tempo di dire: adesso dobbiamo fare il cambio. Io già dal 73 che sono in giunta, e perciò ho già avuto la possibilità di fare qualcosa nel positivo e sicuramente anche, diciamo, nel negativo. Cioè, Renzi a lei la manderebbe dove, Renzi? Le piace Matteo Renzi? Che... Sì, però dico, diciamo, tutti hanno le loro idee, no? Chiaro, questo sì. Senta, la legge di stabilità, l'ha visto, taglia per 2,2 miliardi le autonomie locali. Immagino interessi anche voi. È giusto? È giusto in questi tempi fare un po' di risparmio? Ma più che giusto, io dico che noi abbiamo un'autonomia e abbiamo anche una regolamentazione della parte finanziaria, cioè che noi prendiamo una certa quota, diciamo, delle tasse, imposti, eccetera, non abbiamo debiti, e perciò, però dico, diciamo, anche se abbiamo una situazione un po' particolare, dobbiamo partecipare al risanamento della finanza pubblica, perché anche noi troviamoci sulla stessa nave. E se la nave affonda, allora automaticamente anche noi avremo difficoltà, perciò è giusto che tutti devono accettare i sacrifici, anche noi. Sì, però ci sono due assessori, mi risulta, che il bilancio di previsione per l'anno prossimo hanno storto il naso perché ci sono stati dei tagli. Insomma, si vuole capire, presidente Durwalder, che qui o si fanno delle rinunce oppure la gente non ne può più? Ma guardi, noi abbiamo ancora un bilancio di 5 miliardi, se abbiamo 500.000 abitanti, con 5 miliardi dobbiamo farcela, perché io dico Abbiamo tutte le competenze, cioè dobbiamo pagare la sanità e manutenzione delle strade e anche diciamo le scuole, gli insegnanti eccetera, è vero, però d'altra parte dico non possiamo più fare tutto subito, immediatamente, tutto bello, anche noi dobbiamo fare priorità e dobbiamo accontentarci di ciò che abbiamo. Io dico è giusto che noi diamo una parte anche per il saneamento pubblico. L'unica cosa che non possiamo accettare è che lo Stato ci dica in quali settori. Lo Stato deve trattare con noi in base agli accordi, deve fissare una somma, sì, e poi deve lasciare a noi la possibilità o anche la decisione in quale settore. Cioè lei dice stabilite la somma, ma dove tagliare poi lo decidiamo noi, sì, se nella scuola, questa è l'autonomia, no? L'autonomia. A proposito dell'autonomia, questa autonomia che per qualcuno è un vitello d'oro o una vacca grassa da mungere, non la vogliamo cancellare questa autonomia? Ma guardi, l'Italia avrebbe avuto la possibilità nel 1945 di dire non accettiamo questo aggravio, questo accordo diciamo con le potenze vincitrice, cioè di dire l'Alto Adige rimanga in Italia, però l'Italia deve concedere alla popolazione, sì, un'autonomia legislativa ed amministrativa. Questo è stato imposto allora allo Stato italiano e perciò lo Stato italiano accettato, ha modificato la Costituzione, avrebbe voluto dire beh andatevene, non vi vogliamo, ci ha voluto con questo aggravio. Lo so, però sono cambiati i tempi e dal 1945 sono passati un po' di anni, adesso sì, forse non ha più senso. Sì, ma lei sa diciamo che la nostra autonomia è stata approvata nel Parlamento italiano e anche nel Parlamento austriaco, è stato depositato davanti all'ONU e perciò è stata un'avvertenza tra l'Italia e l'Austria e noi e allora abbiamo trovato questo accordo, adesso pacta sunt servanda, non si possono cancellare unilateralmente questi accordi. Non si possono cancellare, ma se ci fosse un tentativo andando all'ONU, andando in Austria, mettendovi a un tavolo per cercare di cancellarla, no. L'unica alternativa, allora fateci scegliere se stare in Austria, questo lei dice. No, questo no, però lei sa diciamo che ci sono questi movimenti, però noi come stragrande maggioranza siamo del parere che non vogliamo altro che rispettare questi accordi, questi contratti che vogliamo trattare col governo, però non diciamo sì, che il governo dica la Costituzione non ci interessa, noi facciamo questo e quest'altro. Questo sicuramente. Senta, Presidente, le devo chiedere questo, perché lei vuole mettere i cartelli solamente in tedesco in Alto Adige? Cioè è passata una delibera nella provincia e lei ha fatto anche una conferenza parlando in tedesco, ha fatto notare il Corriere della Sera dicendo e dallo Stato dicono, dal governo dicono guardi che le lingue sono due, italiano e tedesco. Lei come li vuole mettere questi cartelli? Prima di tutto non è così che li vuole mettere solo in tedesco, lei deve dire alla popolazione tutta la verità. Noi abbiamo detto che le cose grandi come comuni, come frazioni, fiumi, sì, montagne eccetera, questo stia in tutte e due le lingue. Ah ok, e cosa vuol mettere solo in tedesco? Solo in tedesco i nomi piccoli storici, per esempio me, diciamo Tolomei nel 1923 ha tradotto in Durna di Selva, io mi chiamo Durnwald e non Durna di Selva. Com'è in italiano Durna di Selva? Durna di Selva. Durna di Selva, sì, presidente dico, Durna diciamo, di Selva. Nomi storici, i prati, dove il contadino dice come si chiama questo prato, questo bosco, questa malga, questo sentiero, questo rimanga nella forma originaria, perché è stato il proprietario che ha detto, diciamo, questo maso chiamasi così, per esempio a casa mia, io provengo da un maso di alta montagna, il mio padre ha detto questo maso chiamasi Uberwalder, e Tolomei l'ha tradotto in Valda Venezia, Valda di sopra. Valda. Io dico, quando lei dice mia casa chiamasi così, allora io non vedo diciamo come uno lei sa, di Roma lei si arrabbia, possa dire no, certo, che deve essere cambiato il nome, le cose grandi di... vogliamo mettere tutti e due i nomi perché questo è già entrato nel sì, patrimonio sì, storico di tutti i gruppi linguistici. Ma che tipo di battaglia è questa? Di una voler sottolineare le proprie radici più? Perché sì, voglio dire, se fossero messi a fianco i due nomi, che male fa? No, ma io dico diciamo che è anche storia e anche cultura. e noi abbiamo un accordo fitto Durnwald dove abbiamo detto le cose grandi in tutte e due le lingue, però diciamo i toponimi di una importanza minore, lì almeno e vengono usati già da secoli così, anche dal gruppo linguistico italiano, e io non vedo come mai dobbiamo lasciare questa falsificazione della storia solo per accontentare non so chi. La stragrande maggioranza di noi è d'accordo con questa ultima legge, sì. Però abbiamo una destra tedesca che vorrebbe cancellare tutti i nomi italiani, abbiamo una destra italiana che dice no, l'ultimo sentiero, l'ultimo maso, l'ultimo nome italiano deve essere cambiato e questo non è giusto. E beh, lei dice la maggioranza è con noi, la maggioranza ovviamente di lingua tedesca, immagino. No, ma io nella giunta abbiamo tutti e tre gruppi linguistici, abbiamo sì, certo. Un gruppo tedesco ha votato a favore, il gruppo italiano ha votato a favore, il gruppo ladino l'ha votato a favore. Va bene. Senta, Presidente Durnwalder, quanto è cambiata la politica del 69 oggi? Ha visto oggi che non c'è regione senza uno scandalo, non c'è provincia, anche provincia sotto polemica? Le vogliono cancellare per esempio le regioni, vogliono cancellare oltre alle province. Lei cosa come giudica tutti questi scandali che legge? Ma guardi, la riforma del titolo quinto della Costituzione credo diciamo che non sarebbe giusto. Io credo che l'Italia dovrebbe introdurre finalmente anche il federalismo vero, cioè di dire alle regioni guardate, voi avete queste competenze, però voi avete anche la responsabilità sì. di gestire bene queste competenze. Io credo, ma il federalismo qui è stato usato per fare tanti scandali, Presidente Durnwalder, sì, ma guardi, e si vedono anche sui livello giornali. Romano dove c'è il centralismo abbiamo gli scandali. Appunto, sì, però nella regione, capisce? Cioè, il troppo potere alle autonomie locali, che si chiamino regione e provincia, ha prodotto questo. Questo è il dato di fatto in Italia. Sì, purtroppo anche diciamo dove c'è il centralismo, perché le regioni a statuto normale non è che hanno moltissime competenze, e lì decide Roma, però vediamo e leggiamo tutti i giorni che anche sul livello romano ci sono le stesse cose. Sì. Questo dipende dalle persone e non dalle competenze. Quando io diciamo do la competenza a qualcuno, gli do anche la responsabilità. Lui è responsabile e se amministra male, via, sì. Un altro. Senta, quant'era il suo stipendio nel 1969 da sindaco a Falzes, credo? Io ho ricevuto 50.000 per tutto l'anno. 50.000 lire? Sì. 50.000 lire. Oggi, per tutto l'anno, non certo, per mese. Sì, in un anno. Oggi lei è famoso, è diventato celebre perché guadagna, dicono, più di Obama. Quant'è il suo stipendio? Ce lo vuole dire in netto quant'è il suo stipendio al mese? Guardi, se lei ha visto diciamo l'ultima volta diciamo, sì. nell'edizione del 6-10, l'edizione della Repubblica, vede diciamo che noi siamo sull'ultimo posto di tutta Italia. Vuol dire diciamo che parlano solo di me e parlano solo di qualcuno dei nostri, non dicono che per esempio un consigliere semplice della Lombardia prende più di me come presidente di questa provincia. Ma me lo dica lei, quanto prende come netto? Io prendo attualmente quasi dipende un po' dalle associazioni, però più o meno 10.000. 10.000 netti? Sì, però dico diciamo che in Puglia il consigliere prende 10.000. E perché dicono 20.000? E perché dicono 20.000 più di Obama? Ma perché da me prendono sempre il lordo e dagli altri prendono il netto. E anche questo non è giusto, diciamo, basta vedere diciamo questi elenchi ufficiali. Sì. Allora vedi, e poi dico diciamo io a Obama, lei sa che ha 5 sarte non sa neanche quanto costa un vestito e ha 3 aerei privati. E lei se li paga i vestiti. E prende per i comizi 4 miliardi e prima di andare e per tutta la sua vita prende, non so, una scorta e prende 5 segretari e uno stipendio, una pensione, eccetera, eccetera. Invece lei, poverino... Ma io sono contento, però diciamo è così, diciamo che non prendo lo stipendio più alto d'Italia come qualcuno dice. Però 10.000 com'è? Tanto, troppo? Secondo me è molto. È molto. Io personalmente ho fatto la proposta, per esempio, per questo bilancio, di ridurre anche il nostro fondo di rappresentanza e tutte le spese, compreso anche lo stipendio, del 20%. Ma se lo taglia lì dall'89 può farlo. Chi può farlo se non lei? Ho fatto la proposta adesso, perché è sempre se tutti devono risparmiare, anche sì. Noi dobbiamo risparmiare. Va bene, va bene. Sono il primo di accettarlo. Ce la farà, insomma. Intanto io la ringrazio, Presidente, per essere stato con noi. Bene. Grazie, buona giornata. Grazie a lei, saluti all'Alto Adige, ovviamente a Bolzano. Luis Durvalde, presidente della provincia autonoma di Bolzano. Allora, dicono che, e scrivono i giornali, che potrebbe davvero essere sul punto di una svolta decisiva la tenuta politica di Roberto Formigoni dopo la vicenda che ha portato all'arresto dell'assessore Zambetti, accusato di aver comprato i voti all'Ndrangheta. Oggi molti giornali titolano l'Ndrangheta nel Pirellone, ma se volete c'è anche la prima volta che un comune capoluogo, Reggio Calabria, è stato sciolto dal Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Interno per infiltrazioni mafiose. Ne vogliamo parlare con intanto un procuratore della direzione antimafia che ora la delega all'Emilia Romagna, ma per tanti anni ha seguito la Lombardia. Si tratta di Roberto Pennisi. Dottor Pennisi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. E saluto anche il presidente del gruppo del Popolo della Libertà in Regione Lombardia, Paolo Valentini. Buongiorno, buongiorno Valentini. Buongiorno a lei, ascoltatore, al suo ospite. Senta, dottor Pennisi, allora intanto le chiedo, quando leggiamo tutte queste inchieste, quando leggiamo le intercettazioni di questo presunto compravendita di voti, parliamo ovviamente, ci sarà tutto da dimostrare in processo, dobbiamo stupirci perché la gente pensa che magari che l'Ndrangheta sia relegata in qualche regione, oppure lei le legge senza alcun stupore? Sì, guardi, in effetti io non provo nessuna meraviglia e secondo me nessuno si dovrebbe meravigliare, perché nei luoghi dove esiste la criminalità organizzata di tipo mafioso può non esistere il rapporto col potere pubblico, così come non può non esistere quello con l'economia e la finanza, perché questi rapporti sono l'insè del crimine mafioso. Se non ci fossero, non ci troveremmo di fronte a fenomeni mafiosi, bensì a criminalità comune, cioè normali bande di malviventi. Certo. Quindi nessuno può meravigliarsi che si scopra tutto questo. Quindi se l'Ndrangheta vuole fare affari, perché l'accusa sarebbe questa, cioè si comprava poi i possibili lavori per l'Expo, per esempio, deve per forza, diciamo, fare eleggere qualcuno. Guardi, diventa un interscambio di rapporti, un dare ed avere che, ripeto, è ineliminabile in un territorio ove si accerti la presenza della criminalità organizzata di tipo mafioso, e mi pare che a tutti sia noto che questa presenza nel territorio lombardo sia stata accertata con sentenze, sì, ecco, pubbliche e note a tutti. Lei è d'accordo con la PM Ilda Boccassini, che ha parlato di democrazia inquinata, per usare un eufemismo, di democrazia devastata? Assolutamente sì. Questa è la realtà? Assolutamente sì. Guardi, la meraviglia deve essere ancora minore da parte di chi opera nel territorio, all'interno di organi politici, perché le organizzazioni mafiose, vede, sono organizzazioni che normalmente si definiscono segrete, ma sono segrete rispetto agli organi repressivi dello Stato, che debbono dimostrarne l'esistenza in base a prove, e per portare questa gente a giudizio, mentre invece, guardi, ecco, questo deve essere abbastanza chiaro, sì, anzi molto chiaro, queste organizzazioni sono manifeste nei riguardi degli interlocutori del territorio, perché altrimenti non avrebbero senso. Cioè un politico non può dire io non sapevo di parlare con l'Ndrangheta. Ecco. Ma guardi, non solo un politico non può dire questo, ma un politico ha un preciso dovere, forse non un obbligo giuridico, ma un dovere di denunziare questa gente. Vede, i rappresentanti della politica, dell'economia, della finanza, dovrebbero veramente fare la fila dietro le porte degli uffici, dei pubblici ministeri, per rappresentare tutta questa realtà, piuttosto che essere cercati, essere ascoltati e non solo tante volte negare i rapporti, ma addirittura l'esistenza stessa del fenomeno. Sì, di file non se ne vedono. Stia con noi, dottor Pennisi, come detto è sostituto procuratore nazionale antimafia che per anni ha seguito la Lombardia, ora la delega sull'Emilia-Romagna. Vorrei per un attimo andare sul discorso prettamente politico con Paolo Valentini, come detto è il presidente del gruppo Popolo della Libertà Regione Lombardia. Glielo chiedo direttamente, Valentini, ha senso continuare in una legislatura di una regione che vede un numero infinito di consiglieri indagati a vario titolo, vari assessori hanno avuto problemi, sono stati arrestati, questo è il quinto con problemi, ha senso andare avanti politicamente? No, guardi, vari assessori sono stati arrestati, questo lo dice lei perché questo è il primo, non il quinto, quindi con problemi politici, con problemi indagati. Ma questa è un'altra cosa, un conto sono le indagini, perché di indagini se ne fanno tanti, no? Mi risulta che anche ultimamente un ex giornalista sia stato condannato e dovrebbe anche andare in galera, è come dire allora tutti i giornalisti sono di quella risma lì, oppure siccome hanno condannato Tanzi perché ha portato via 8 miliardi, tutti gli imprenditori li mettiamo in galera perché... Quindi non possiamo fare di tutto un erbo un fascio, perché altrimenti in questo paese non la finiamo più. No, però 5 assessori con problemi giudiziari a vario titolo e diversi indagati in consiglio. I problemi sono una cosa, le indagini sono una cosa, le condanne sono un'altra cosa e il rinvio a giudizio è un'altra cosa ancora. Perché non dimentichiamoci che è stato rinviato a giudizio 2 volte il governatore della Puglia, è stato rinviato a giudizio il governatore dell'Emilia Romagna, è stato indagato in Toscana una marea di gente. Allora, se facciamo di tutto un erbo un fascio non ne usciamo più. Tant'è che io condivido in pieno la prima parte dell'analisi del procuratore, perché è sicuramente vero che le infiltrazioni mafiose sono all'interno di quei tessuti sociali come la Lombardia, dove diciamo c'è la ciccia. Sì, ci sono gli appalti, la ricchezza, i soldi. Beh, chiaro. Scusi, con tutto rispetto, va in Basilicata a fare gli affari? Non penso. Altra cosa, e cosa diversa, è che si faccia tutto un fascio e dice la democrazia. No, ma per carità, non si fa di tutto un fascio, però mi risponda alla domanda con un sì e con un no, cioè se ha senso, come chiedono molti giornali oggi, se ha senso continuare la legislatura. Il problema è politico, non giudiziario, perché il problema, le inchieste vadano avanti. Se qualcuno è in grado di dimostrare la colpevolezza dei consiglieri regionali e degli assessori, si faccia avanti, lo faccia, nessuno lo mette in discussione, fino a quel momento però, mi permetta, c'è una presunzione di innocenza, perché ci sono alcune cose che lasciano anche un po', diciamo, meravigliati. Io non voglio fare dietrologie facili, però parte l'attacco del governo alle regioni, smontiamo tutto, il giorno stesso succede quel che succede. Ma guardi che però, mi scusi Valentini, guai giudiziari, ripeto, a vario titolo e per tutti i partiti, Penati, c'è la Lega, certo, da un bel po' in Regione Lombardia. Io non sto facendo, certo, se lei deve smontare il sistema delle autonomie, dove va a prendere? Va a far saltare il consiglio regionale della Basilicata? Ho capito, ma così sembra un complotto della magistratura. Non è un complotto della magistratura, è un disegno ben organizzato per smontare tutta una serie di realtà locali, i comuni, le province, l'attacco alle regioni, e ci vuole ricostruire, ma questo è manifesto. Vabbè, se non è, complotto, disegno è un po' la stessa. Conta un disegno politico. Ah, un disegno politico. Completo. Ma vorrebbe dire che ci sono dei magistrati che eseguono un disegno politico. Non eseguono niente, c'è un disegno, ma ieri sono venuti allo scoperto i fautori di uno Stato centralista che metta da parte le autonomie, eccetera, eccetera. No, è venuto molto tranquillamente. Io non lo condivido, qualcuno lo condivide e lo porta avanti. Lo porta avanti con i sistemi che ritiene opportuno. Decideranno i cittadini su questo. Sul fatto invece politico della Regione Lombardia è chiaro che se in questo momento non dovessero esserci le condizioni politiche per cui l'alleanza Lega Nord PDL non regge più, avanti, è chiaro che quella è una questione politica di numero. Però questa è una questione politica che ha un risvolto anche, mi permetta, in Piemonte e in Veneto. Sì, certo, ma ripartiamo. No, no, ma infatti, sì, ripartiamo da qui. Devo dare le informazioni sul traffico. È interessante perché Formigoni ha detto: se cado io, e ha detto di aver parlato con Berlusconi, e questa è la linea politica del Popolo della Libertà. Se cado io e la Lega mi fa cadere il sostegno, allora cadano anche Cota e Zaia in Piemonte e Veneto. Siamo sempre con il presidente del gruppo Popolo della Libertà alla Lombardia, Paolo Valentini, e con il procuratore Roberto Pennisi, al quale, prima di tornare sulla questione politica Cota Zaia, che sono cose che non interessano ovviamente a Pennisi, ma interessano politicamente a Valentini. Dottor Pennisi, le chiedo un commento sull'idea del disegno, non complotto, questa è una parola che ho usato io, ma il disegno, dice Paolo Valentini, per smantellare le autonomie, le regioni da parte dello Stato centralista. Che ne pensa? Guardi, è un giudizio politico, ecco, che rispetto, ma non intendo ovviamente interloquire su questa questione. Allora interloquisca su questo l'aspetto che dice Valentini. Insomma, sono tutte inchieste, stiamo a vedere, ci saranno i tempi giudiziari, ma non è che si può decidere di far cadere o di abbattere giudiziariamente, per il numero di inchieste a vario titolo, anche alte, un consiglio regionale e una regione. Ma sì, guardi, non bisogna confondere. Io poco fa ho detto una cosa che mi sembrava abbastanza chiara: c'è il piano delle indagini e c'è poi un altro piano che, mi creda, è non meno importante nella strategia di contrasto della criminalità organizzata. L'apparato repressivo dello Stato, cioè gli organi giudiziari e la polizia giudiziaria, debbono individuare le responsabilità penali, ma non debbono e non possono contrastare il fenomeno come fenomeno sociale, contrasto che compete ad altri e va svolto sul piano politico. Anche quindi dai partiti, sono i partiti anche che dovrebbero controllare un po' di più. Ma guardi, e questo era quello che dicevo un istante fa, se chi opera nel territorio dal punto di vista politico, dal punto di vista dell'esercizio dei poteri pubblici e amministrativi, non prende coscienza di ciò e non adotta i comportamenti successivi, vede, sarà una battaglia inutile e persa in partenza. Ecco, questo è un punto interessante. Paolo Valentini, in questo il dottor Pennisi dice: non si possono i partiti, qualunque partito, sottrarsi da questa responsabilità politica nella selezione, per esempio, delle persone, cioè, perché poi sennò dopo devono intervenire le manette successivamente, tutta una rincorsa. Valentini, guardi, apprezzo il dottor Pennisi per la correttezza, gli faccio i miei complimenti anche per l'equilibrio e sposo in pieno la sua tesi. Però sottolineiamo che quello che è successo all'assessore Zambetti, che è una cosa gravissima, perché, come ha detto il presidente Formigoni, o la magistratura ha preso un abbaglio, ma in questo caso mi sembra che ci siano dei dati concreti, o l'assessore Zambetti ha tradito tutti noi e ha fatto dei danni inenarrabili. Però è il primo caso, visto che lei parla di una lista, sì, di collusione di collusione è il primo caso, ma gli altri hanno altri problemi giudiziari. Ci sono anche assessori indagati perché dicono che non hanno pagato 2.000 euro di volantini in campagna elettorale. Allora, ci sono inchieste, cerchiamo, sì, di capirci, sì, bene. No, perché altrimenti sembra che siano tutti collusi con l'Ndrangheta, cosa che non è vero, perché i cittadini lombardi sanno benissimo che da 17 anni le strade le abbiamo fatte, gli ospedali le abbiamo aperti, le casse integrazione per quelli che non hanno i contratti tipici e quelli che le hanno atipici l'abbiamo fatta, le case di riposo sono aperte. Vado a chiedere cosa succede nel resto dell'Italia. Ma questo sì. sembra che siamo in un paese. Però le chiedo Valentini, è giusto, come fa anche Formigoni, mettere davanti l'efficienza, per esempio, nella sanità della Regione Lombardia, che nessuno mette in discussione, visto che siamo efficienti, questo è quello che facciamo. Non è giusto, va tenuto in considerazione, sembra che non conti. Allora, conta, e conta e come, perché se i soldi pubblici sono spesi bene, si vede anche dal fatto che uno le cose le fa invece che dirle sulla carta e poi si mette in tasca i soldi delle case, delle strade, degli ospedali. Però mi scusi, faccio un paradosso, voglio commentare, sì, quello che diceva il procuratore, sì, sul fatto che anche i partiti devono fare selezione sulla classe dirigente e tenere antenne dritte, ha perfettamente ragione. Infatti questo è un problema più che di Formigoni, dei partiti, perché questa gente viene messa in lista e votata dai partiti, non da Formiche. Però Valentini, mi faccia fare un paradosso: se io devo fare un lavoro per l'Expo come Regione Lombardia, lo faccio bene, ma lo faccio fare a un'azienda dell''Ndrangheta perché ha messo lì una persona votata, e magari il lavoro è fatto bene, ma a me non sta molto bene che quei soldi vengano dati all''Ndrangheta. Si sta parlando di queste cose o di voti comprati? Perché l'assessore Zambetti, con tutto il rispetto, aveva delle deleghe che con l'Expo e con tutto quello di cui sta parlando non hanno nulla a che fare. Nulla. E perché? Quindi, perché l''Ndrangheta sbagliato obiettivo. Ha sbagliato obiettivo, cioè perché farebbe una perché persona che non c'entra niente con quelle cose lì. Capito, ma scusi, però perché fare eleggere una persona per averne un tornaconto? Probabilmente avranno fatto i loro conti, cosa che non è avvenuta, perché quando hanno distribuito le deleghe, non so se per caso, non so se per fortuna, l'assessore Zambetti non ha avuto nulla delle deleghe che hanno a che fare né con l'Expo né con gli affari del 'Ndrangheta. Senta Valentini, io devo concludere. Mi dice in 30 secondi perché c'è questo che qualcuno definisce un ricatto politico, cioè se cadiamo noi cadono Lombardia, Veneto e Piemonte? Per una questione politica molto evidente, qui c'è uno scontro tra virgolette, un posizionamento in vista delle prossime elezioni nazionali, non si capisce come va a finire la questione della legge elettorale, quindi se si andrà in coalizione o se si andrà con un proporzionale, quindi ognuno per sé o per tutti, e tutti cercano in questo momento di portare acqua al loro mulino e mettere fieno in cascina. Però che il PDL non può accettare il suicidio politico e il ricatto della Lega, mando a casa la Lombardia e i tuoi governatori rimangono lì, mi sembra assolutamente banale. Voi fate cadere noi e noi facciamo cadere voi, questo tradotto politicamente. Vi ringrazio, mi devo fermare qui. Roberto Pennisi, ripeto, è magistrato antimafia con delega ora all'Emilia Romagna e prima in Lombardia, mentre Paolo Valentini, capogruppo del PDL in Regione Lombardia. Grazie, potete riascoltare tutto su radio24.it. L'appuntamento è rinnovato a domani alle 6:30 puntualissimi con 24 Mattino.